Italia in controluce. 13:34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi e benvenuti all'appuntamento con la cronaca di Radio 24. Scopriamo l'Italia in controluce. Si parla in queste ore della lista Falciani o Falciani, che contiene i nomi di correntisti in Svizzera, possibili o presunti evasori fiscali. Non è la prima volta che la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate acquisiscono dati di questo genere. Ma come funziona? Come e chi può utilizzare queste liste? E come sono andati a finire i casi precedenti? Domande alle quali prova a rispondere Raffaella Calandra. La più famosa fu quella del Liechtenstein, poi venne quella di Monte Carlo, San Marino e Slovenia. Ci fu quella targata Pessina o quella di volta in volta ribattezzata col nome del commercialista di turno. C'è stata la lista UBS e poi ora quella HSBC, per non contare le varie dell'Agenzia delle Entrate. A mettere insieme gli ultimi più celebri elenchi di conti esteri e presunti evasori nostrani si arriva ben oltre la soglia delle 8.000 voci. Il gruppo più consistente è proprio l'ultimo, 7.092 nomi della lista HSBC arrivata a Ciampino con volo militare. L'uomo che l'ha portata a casa si chiama Michele Carbone, generale di brigata alla guida del terzo reparto, quello rapporti internazionali, dopo essere stato tra l'altro capo della segreteria di Roberto Speciale, ex generale, ora deputato PDL. Scopo della missione a Parigi: acquisire in via ufficiale, spiegano, quei dati esteri copiati in origine dall'ex dipendente Falciani e ora utilizzabili per via amministrativa. Prosegue invece sulla sua strada e con i suoi tempi il percorso penale avviato dalla Procura di Torino con una rogatoria internazionale, e questo per evitare un secondo caso Vaduz, come spiega il PM romano Giuseppe Cascini. Eventuale documentazione proveniente dall'estero acquisita in via amministrativa dalla Guardia di Finanza non è utilizzabile nel processo penale. È proprio legato alla necessità di avere piena contezza del modo di formazione di un documento, della sua provenienza. L'autorità giudiziaria del paese estero ci fornisce queste garanzie. Se invece il documento è trafugato o procurato, diciamo, con modalità non controllabili e non c'è nessuna sicurezza nemmeno sulla bontà dei suoi contenuti e quindi sulla veridicità di quanto è scritto all'interno del documento. Nel caso Liechtenstein, infatti, per i 120 nomi lombardi dei 390 italiani presenti nella lista, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'inutilizzabilità del documento. Ispezioni e sequestri hanno subito invece 82 indagati dei 500 nominativi trovati nel PC di Fabrizio Pessina, l'avvocato arrestato a Malpensa nell'inchiesta milanese sulle bonifiche dell'area Monte City. Imprenditori, soprattutto medio-piccoli, sono anche quelli contenuti negli elenchi della banca UBS, almeno 300 gli italiani, parte di un DVD zeppo di dati intorno ai quali si consumò un braccio di ferro tra Stati Uniti e Svizzera e anche una trattativa a suon di milioni con gli 007 tedeschi. Portano nel paese elvetico anche i soldi dei 60 promotori Mediolanum, indagati ancora a Milano per evasione dopo le segnalazioni di un commercialista già coinvolto nel caso Italis. Inchiesta che apri dunque lista che trovi, e se San Marino ha dichiarato la caccia a 4.000 residenti introvabili e l'Agenzia delle Entrate agli oltre 2.000 evasori con fondi per più di 2 miliardi, c'è chi ha esplorato nuovi orizzonti per i propri soldi. Così ora i tesori nascosti si cercano pure nelle banche della Slovenia o sotto le palme della Malesia. È nell'isola Karasalgari, infatti, che ci sono quasi 7.000 società offshore provenienti da mezzo mondo. Raffaella Calandra, GR24, Sole 24 Ore. Italia in controluce. Presunti evasori fiscali che tremano dunque, ma non solo. In questi mesi in corso ci sono in Italia una serie di processi per corruzione, dagli scandali nella sanità ad appaltopoli, passando per il maxi riciclaggio che ha coinvolto le compagnie telefoniche. Scandali che hanno fatto parlare di una seconda Tangentopoli. Ma è davvero così? L'abbiamo chiesto a Piercamillo Davigo, oggi giudice della Corte Suprema di Cassazione, ieri tra i protagonisti di Mani Pulite. L'intervista è di Nicola Cardo. Dottor De Vigo, questa nuova ondata di corruzione, questa nuova presunta ondata di corruzione, lei come la percepisce? Pensa lei che sia più grave di 18 anni fa o è meno grave? Guardi, la corruzione è uno di quei reati con una cifra nera molto elevata. La cifra nera è la differenza fra i reati commessi e quelli denunciati. Ci sono reati in cui è minima, per esempio i furti d'auto vengono denunciati quasi tutti, e reati in cui invece è altissima come la corruzione. Quindi non si può sapere quanta corruzione c'è, si può sapere quanta corruzione viene scoperta. Per misurare la corruzione che c'è, ci sono altri parametri, per esempio gli indici di percezione della corruzione elaborati da Transparency International, che dà l'Italia in costante peggioramento. L'Europa occidentale è il penultimo paese, l'ultima è la Grecia. Quindi la Grecia, anche in collegamento a un alto tasso di corruzione, ha attraversato un periodo di forte crisi economica e lo sta attraversando tuttora. Ci può essere un legame anche in Italia tra la crisi economica e l'alto tasso di corruzione? Ce n'è in due sensi. Da un lato la corruzione nasce dall'inefficienza e a sua volta determina inefficienza del sistema economico-politico. Dall'altro è che durante le fasi di recessione le indagini giudiziarie hanno esito positivo in misura maggiore rispetto alle condizioni normali. Questo può spiegare la scoperta, nel senso che quando la torta si restringe le persone litigano per spartirsela ed è possibile agli inquirenti inserirsi in questi litigi. Comunque, gli scandali che stanno emergendo e che devono ancora essere tutti verificati, in quale misura sono diversi da Tangentopoli secondo lei? Quello che emerge non è poi molto diverso, se non in alcuni particolari che denotano un calo della prudenza, come l'uso di assegni. Una volta non si ricorreva a queste cose che lasciavano tracce documentali. E il vero problema però è che queste cose sono un aspetto marginale rispetto a condotte sostanzialmente legalizzate che comportano un dispendio di denaro pubblico spaventoso. Le faccio un esempio: l'alta velocità ferroviaria in Spagna è costata poco più di 9 milioni di euro a chilometro, in Francia poco più di 10 milioni, la tratta Milano-Torino oltre 70 milioni di euro a chilometro. Qualcuno dovrebbe chiedersi come mai. A 18 anni da Tangentopoli molti si stupiscono, ci si chiede come abbia fatto il sistema di corruzione a rimodellarsi in Italia. Secondo lei come ha fatto? Beh, per 15 anni l'attività principale della politica non è stata quella di contrastare la corruzione, ma quella di contrastare le indagini e i processi sulla corruzione, quindi non c'è da meravigliarsi. E invece come è cambiata la reazione dell'opinione pubblica? Perché nel 92 c'erano i lanci di monetine, c'era la Lega che andava in Parlamento col cappio e ora invece nessuno sembra scandalizzarsi? Perché, come ha detto il professor Ainis, l'indignazione è un po' come la tensione erotica, è difficile mantenerla molto a lungo. Io continuo a pensare che per ragioni economiche che non sto a dettagliare i ladri non possono mai essere più numerosi dei derubati e quindi che comunque il complesso del paese sia costituito da derubati e non da ladri. Le norme inserite nel disegno di legge anticorruzione, crede che ci siano misure capaci di frenare il fenomeno? Ma non credo proprio. Per cominciare, il problema principale della corruzione è scoprirlo. Se non si scopre, si possono prevedere anche pene spaventose che tanto non verranno mai irrogate, quindi non ha molto senso. Da un lato si vogliono aumentare le pene per la corruzione, che sarebbe anche giusto per carità, ma dall'altro si tolgono o si riducono le intercettazioni telefoniche, il che rende più difficile scoprire queste ipotesi. Io vorrei farle comunque una domanda personale. Alla fine della Prima Repubblica lei aveva la possibilità di entrare in politica. Tornando indietro, lei ci penserebbe un po' di più poter appunto entrare nel campo politico per cambiare le cose? Assolutamente no, io sono convinto che chi fa il mio mestiere debba continuare a fare il mio mestiere, a meno che non scelga di abbandonarlo definitivamente. Italia in controluce. E ora la scoperta di un personaggio, uno scrittore e uno sceneggiatore ce lo racconta, ce lo presenta Daniela Binello. È l'ultimo giorno di scuola in una quarta classe di un istituto tecnico di periferia. Il professor Vivaldi, interpretato da Silvio Orlando, è un idealista e si sta arrampicando sui vetri per cercare di salvare gli studenti a rischio bocciatura. Preside, Astariti non è bravo. Astariti è un primo della classe. Astariti non c'ha i capelli tagliati alla moicana, non si veste come il figlio di uno spacciatore, non si mette le scarpe del fratello che puzzano. Astariti è pulito, perfetto. Interrogato si dispone al lato della cattedra, senza libri, senza appunti, senza imbrogli. Ripete la lezione senza pause, tutto quello che mi è uscito di bocca, tutto il fedele rispecchiamento di un anno di lavoro. Alla fine gli metto 8, ma vorrei tagliarmi la coda. Perché scolastico? Aspetti, tagliatela. Ma perché? Ma perché Astariti è la dimostrazione evidente che la scuola italiana funziona solo con chi non ne ha bisogno. Scrittore, sceneggiatore, giornalista, Domenico Starnone è riuscito a raccontarci le mille storie che accadevano fra i banchi di scuola quando lui, testimone d'eccezione, faceva l'insegnante. Da quei quadretti intrisi di autoironia sono stati realizzati film come Auguri professore di Milani e La scuola di Lucchetti, di cui abbiamo ascoltato un passaggio. All'inizio era semplicemente un esercizio di ironia su una realtà che conoscevo bene, facevo l'insegnante da anni. L'ironia è una socializzazione del malumore. Più il mondo ci mette di malumore, più l'uso dell'ironia ci permette di rendere comune il nostro malessere, di farlo sentire ad altri, diciamo in un modo che accompagna il malumore al sorriso amaro. E questo è un tratto dell'ironia che mi piace. Dall'ironia alla satira il passo è breve, ma è l'obiettivo che è diverso. Il suo compito, se satira deve essere, è prendersela con i potenti, prendersela col loro modo di occupare il potere, prendersela col loro modo di gestire la vita pubblica e anche la vita privata dei cittadini. In questo senso la satira è un, diciamo così, è un'attività che noi dovremo sempre e comunque tutelare. Naturalmente chi fa satira, proprio perché fa satira, si assume tutti i rischi del lavoro che fa. E quando io scrivevo di scuola a quel modo, sapevo che alcuni ne sarebbero stati contenti ed altri non sarebbero stati contenti affatto. Ma è il lavoro, direi, della satira, ma anche in generale dello scrivere. Se quando si scrive si comincia a pensare questa frase però farà arrabbiare quello e quell'altra, vuol dire che è già scattato un meccanismo di autocensura e quindi vuol dire che il lavoro dello scrittore ha smesso di essere libero. È tutto per Italia in Controluce, siamo in leggero ritardo, quindi diamo subito la linea alla regia.